Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi amici miei cari del mattino. Oggi vorrei parlare di quella che in molti ormai chiamano sindrome post-Covid-19. Insomma, succede una cosa strana. Molti pazienti guariti, anche a distanza di settimane dalla dimissione, continuano a lamentare disturbi, insomma a non stare bene. Allora, un gruppo di geriatri della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'Università Cattolica Campus di Roma hanno condotto uno studio per fare il punto della situazione e soprattutto chiarire quali sono i sintomi più frequenti e persistenti e trovare anche delle soluzioni. Tra gli autori dello studio una nostra vecchia conoscenza, un amico della nostra trasmissione, lui è mattiniero e in linea con noi il professor Francesco Landi. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Docente di medicina interna e geriatria all'Università Cattolica e direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione al Policlinico Gemelli. Professore, partiamo dai sintomi. Quali sono i sintomi riferiti? Mi sembra che la stanchezza sia la stanchezza intensa sia quello che dal vostro studio emerge più frequente. Esatto, noi abbiamo studiato sostanzialmente i soggetti che sono stati ricoverati durante marzo-aprile proprio per il Covid, molti di questi in maniera anche sintomatica importante, quindi che hanno avuto la necessità di fare ossigenoterapia, qualcuno addirittura che appunto ha avuto necessità della rianimazione. E quello che abbiamo capito durante proprio la fase acuta era cercare di comprendere cosa sarebbe successo dopo e come questi pazienti in qualche modo riuscivano a recuperare dai sintomi classici della malattia. Ricordiamoci che questa è una malattia, io racconto sempre, che sui libri non esiste. Anche per noi medici, per gli studenti, se volessimo studiare la malattia e aprire un testo di medicina anche dei più moderni, noi il capitolo Covid-19 non lo troviamo. Quindi da questa proprio esigenza è nato il Day Hospital post-Covid e quindi dopo più o meno 2 mesi dall'esordio della malattia abbiamo cominciato a richiamare queste persone e a rivalutarle, e come primo approccio, proprio il primissimo approccio, è stato quello di sottoporli a una sorta di questionario sui sintomi che avevano avuto durante la malattia acuta e sui sintomi che ancora presentavano. Primo fra tutti, quello che in qualche modo hai anticipato, il senso di affaticamento, il senso di fatica. Ecco, consideriamo che più della metà delle persone, quindi guarite dal Covid, a distanza di 2 mesi, ancora però manifestano questo sintomo di affaticamento e di fatica. Per fortuna, professor Landi, però la maggior parte dei pazienti non presenta quei danni d'organo che voi clinici temevate a livello polmonare, a livello del cuore, del fegato, anche a livello oculare. Esatto, queste sono tutte buone notizie, perché noi abbiamo in realtà, dopo questo aspetto anamnestico, cioè di storia clinica e di sintomi, abbiamo sottoposto questi soggetti, questi pazienti, a una ampia gamma di esami, appunto anche il fondo dell'occhio, esami per esempio dell'olfatto, quindi da parte dell'otorino, ma anche appunto di nuovo radiografia e TAC del torace, ecocardiogramma, ecografia fegato. Questo per citarne a quelli più importanti, se vogliamo, e principali. Per fortuna in realtà dei danni d'organo, quindi che residuano, sono presenti in pochissima percentuale, in pochissimi pazienti, e probabilmente noi oggi non sappiamo se per esempio quella che era a livello polmonare la temuta fibrosi polmonare in realtà qualche paziente poi realmente l'andrà a sviluppare dopo aver avuto questa polmonite interstiziale collegata al Covid-19. Quindi da questo punto di vista abbiamo delle buone notizie. La buona notizia deve essere anche rispetto ai pazienti che ci ascoltano, che certamente alcuni sintomi permangono e permangono anche a distanza di 2 mesi, però ricordiamoci che alcuni sintomi possono essere anche collegati di più a un po' un aspetto psicologico negativo di aver avuto una malattia che oggi, se vogliamo, assume anche un connotato un po' particolare, un virus che i media hanno descritto facendo vedere immagini, per esempio, del supermercato di Wuhan, della Cina, quindi qualcosa che insomma in qualche modo ha potuto e di fatto impressiona un po' tutti quanti. E quindi è chiaro che questi pazienti in qualche modo, oltre poi ad aver realmente sofferto la malattia, isolati in ospedale per vari giorni, addirittura qualcuno appunto in rianimazione, le notizie certamente importanti rispetto all'alto tasso di mortalità che abbiamo avuto in Italia, certo questi sono tutti aspetti che in qualche modo hanno impattato sul piano psicologico di questi pazienti, e quindi è chiaro che sintomi come la fatica o anche la dispnea sono dei sintomi riferiti che in qualche modo possono essere legati più che a un danno d'organo anche a un aspetto di fatto psicologico. Professor Landi, è indubbio comunque che la qualità di vita che voi avete valutato con apposite scale è peggiorata in tutti i pazienti. Crede che questa condizione si possa riscontrare anche nelle persone che hanno avuto una forma lieve di Covid-19, quindi non hanno avuto necessità di ricovero, sono guariti al proprio domicilio, ma comunque ci potrebbe essere la possibilità di ritrovarsi un po' descritte in questa situazione, quindi avere una certa anchezza, l'astenia, i dolori alle articolazioni, anche l'umore, no? Che è un po' in qualche modo segnato e provato. Io credo che noi sicuramente nel gruppo di pazienti, quindi ripeto, di persone che sono state ricoverate, che quindi hanno avuto una malattia discretamente importante, mettiamola così, certamente la qualità di vita è riferita a essere peggiorata. Questo può essere legato certamente alla gravità della malattia. Io credo che oggi dobbiamo pensare che la nostra qualità di vita in genere, sia di chi ha avuto una malattia più lieve, che quindi è rimasto a casa, ma io credo che anche in tutte le persone che non hanno avuto la malattia, mi riferisco per esempio anche alle persone anziane che sono state costrette per 2 mesi in questo lockdown di isolamento sociale, io credo che un po' la qualità di vita di tutti quanti, e in particolare per esempio anche delle persone anziane che sono rimaste sole per così tanto tempo, in qualche modo sia peggiorata, e credo che questo sia un punto straordinariamente importante da cui ripartire con un atteggiamento oggi probabilmente un attimino più aperto, considerando anche quelli che sono i dati epidemiologici che stiamo osservando. Tra l'altro, professore, proprio per ripartire, voi avete tutto pronto, perché esiste già un programma di rieducazione fatto di ginnastica supervisionata, educazione alimentare, tutto contenuto già in un progetto Sprint di cui avevamo parlato, di cui Gemelli e Università Cattolica sono capofila, tra l'altro un progetto europeo. Professor Landi, ce lo racconta brevemente, in modo che ciascuno di noi possa un po' prendere spunto. Esatto, noi dobbiamo prendere spunto da questo che è il progetto, nel suo acronimo Sprint, dobbiamo ritrovare Sprint. Ora, in maniera molto rapida, io vi racconto quello che è successo a Polino Gemelli immediatamente dopo un po' la fine del lockdown, e quando il governo ha sostanzialmente riautorizzato l'apertura delle palestre e dell'attività sportiva, anche dell'attività sportiva all'aperto. Bene, gli anziani che erano nel nostro progetto e che venivano quindi a fare la cosiddetta ginnastica adattata, personalizzata, ci hanno subito richiamati e sono subito ritornati. Non vedevano l'ora di ricominciare la classe, di riprendere l'attività fisica, perché noi diciamocelo francamente, nei 2 mesi di lockdown abbiamo imposto, giustamente se vogliamo, a tutte le persone l'astensione da una pillola salvavita che è quella dell'esercizio fisico. Abbiamo imposto la sedentarietà, che ci siamo sempre detti essere l'aspetto negativo della longevità. Ora dobbiamo ripartire, dobbiamo quindi ritornare attivi, ripartire con Sprint. E vorrei dire un'ultima cosa, che il progetto Sprint, che era appunto un progetto nato per gli anziani, oggi ha una classe, anzi più di una classe, che è un progetto Sprint post-Covid. Noi queste persone che abbiamo visto affaticate, con ancora che riferivano un po' di affanno, che riferivano dolori articolari, gli abbiamo proposto di venire a fare ginnastica, esercizio fisico adattato e personalizzato qui a Pollino Gemelli, nel parco del Pollino Gemelli, tutti insieme, e stiamo vedendo che, come dire, piano piano, grazie a questo tipo di attività, ovviamente associata a una corretta alimentazione, anche questo senso di fatica può essere recuperato, evidentemente può essere recuperato in maniera più rapida. Professor Landi, grazie. Quindi aggiungiamo Sprint alle nostre giornate e potremmo iniziare a farlo già sin d'ora, andando magari in ufficio a piedi o facendoci una bella passeggiata. Professor Landi, torni presto a trovarci. Ringrazio Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Danilo Di Trani in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo le 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata con Sprint. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.